Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Distanziamento fisico, accurata igiene delle mani, dispositivi di sicurezza e una generosa dose di responsabilità. E questa la ricetta per affrontare la fase 2 in sicurezza, offrendo il personale contributo per evitare la diffusione del virus. In linea con noi il professor Valerio Rossi Albertini, ricercatore al Consiglio Nazionale delle Ricerche e autore di Conosci il tuo nemico, un vademecum sul coronavirus per capire cos'è, da dove viene e quali sono i comportamenti corretti per difendersi. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Professore, oggi lei deve aiutarci a individuare le disattenzioni e le leggerezze che potrebbero ridurre o vanificare gli effetti protettivi delle misure di sicurezza. Ora circoleremo prevalentemente con le mascherine. Le mascherine sono fastidiose, inutile nasconderselo. Però quello che bisogna evitare assolutamente è pensare che la mascherina sia la stregua di un paio di occhiali, che può essere sollevata, abbassata per rispondere al telefono o per bere un bicchiere d'acqua. Quando è necessario fare questa operazione bisogna prestare la massima cura. La mascherina si scioglie da dietro le orecchie, si lascia appesa senza toccare naturalmente soprattutto la superficie esterna che potrebbe essere quella contaminata, anzi la mascherina serve proprio a questo scopo, ad evitare che un'eventuale contaminazione arrivi nelle nostre vie respiratorie, e dopo averlo fatto con la stessa cautela, con la stessa attenzione, ripoggiarla sulla bocca, tirare gli elastici e fissarli dietro le orecchie. Professor Albertini, igiene delle mani. Sì, domani è la giornata mondiale dell'igiene personale, quindi in questo momento più che mai è il caso di ripetere che il primo presidio di sanità, di salubrità contro il coronavirus e in generale contro tutte quante le aggressioni batteriche e virali è lavarsi accuratamente le mani. Nel caso del coronavirus il sapone ha una duplice funzione: non solo rimuove le impurità grasse dalle mani e quindi porta via anche i germi, ma poi aggredisce violentemente il coronavirus, che è uno strato grasso sulla superficie che viene sciolto dal sapone. Quindi sempre avere a disposizione o un igienizzante per quando non siamo a casa e del sapone. Lavarsi le mani non è un'operazione da fare con leggerezza, bisogna dedicargli almeno un minuto. Grazie professor Rossi Albertini. Prima di salutarvi vi invito a partecipare all'iniziativa che abbiamo lanciato oggi sulla gratitudine. Le neuroscienze ci dicono che questo sentimento mette in moto nel nostro cervello una serie di reazioni biologiche che producono effetti molto positivi, che ci mettono nella predisposizione d'animo migliore per ripartire, per ricostruire una nuova normalità. Allora approfittiamone, pensiamo a che cosa di noi e intorno a noi ci fa provare gratitudine e raccontiamocelo. Mandate una mail a obiettivosalute@radio24.it oppure lasciate un messaggio vocale al 335-830-4306. Raccogliamo le nostre storie di gratitudine, i nostri messaggi, le nostre riflessioni e le consegniamo ad Andrea Vitali, uno degli scrittori italiani più amati e apprezzati, che prenderà spunto per scrivere altri racconti di gratitudine. Che dire? Ve ne sono grata. Buona giornata, a domani.